2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica a partire dalle 13 dopo il GR delle 13. A proposito di 13, venerdì 13 è la giornata mondiale della radio. Naturalmente anche noi festeggiamo in modo virtuale perché sì, siamo appassionati di tecnologia, ma prima di tutto io sono appassionato di radio e non posso non dimenticare e invitare tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare la radio, anche Radio 24, ma altre radio italiane in digital radio con la tecnologia digitale che ormai copre il 60% del nostro territorio. In outdoor, come si dice, quindi fuori dalle abitazioni, 60% della popolazione. Poi in alcune aree non ancora oggi non si riesce a penetrare negli edifici per problemi di copertura, perché siamo partiti da qualche anno, ma questa rete si sta espandendo e anche questa è una buona notizia. A proposito di reti che si espandono, in questa puntata parleremo della rete a banda larga italiana, prevalentemente in fibra ottica, ma sull'ultimo miglio, come si dice, c'è un dibattito molto aperto tra il governo e, diciamo, i tecnici che non devono rispondere necessariamente agli azionisti che dicono la fibra fino a casa è la soluzione per il futuro. E se noi guardiamo ai grandi paesi tecnologicamente avanzati come la Corea del Sud e il Giappone, che vengono spesso utilizzati come paragone, è lì la fibra va direttamente nelle abitazioni. L'altro partito è quello che dice: ma potremmo sfruttare ancora per qualche anno il rame con le tecnologie di cui abbiamo a disposizione in questi anni, sfruttando quella particolare modalità e quella particolare modello di rete che si chiama Fiber to the Cabinet, quindi la fibra fino all'armadio di strada, poi da lì si prosegue con il vecchio, anzi vecchissimo rame. Ne parleremo in questa puntata di 2024 con il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina per parlare di audio ad alta qualità. Adesso le nostre Digital News. Digital News. Partiamo dal settore viaggi. Continua l'espansione di Expedia, che dopo aver acquistato Travelocity ha annunciato questa settimana di aver acquisito Orbitz, che è uno dei più grandi portali americani di prenotazione viaggi su internet. Valore dell'operazione 1,6 miliardi di dollari. Expedia venne lanciata nel 1996 da Microsoft, oggi è il principale player al mondo nel settore dei viaggi online con marchi come Hotels.com, Hotwire e Trivago. Digital News. Telecom Italia ha annunciato che entro il 2016 TIM sarà l'unico marchio commerciale per l'offerta di telefonia fissa, mobile e internet. Da luglio di quest'anno la bolletta diventerà mensile e non più bimestrale, e per i clienti da oltre 10 anni ci saranno due nuove offerte: 29 euro al mese per tutte le chiamate a fissi e cellulari nazionali, tutto compreso, oppure prezzo che sale a 44,9, quindi 45 euro per chi ha anche un collegamento internet tipo ADSL. Digital News. La Volkswagen ha scelto TomTom Traffic per equipaggiare in Europa le auto del gruppo, partendo dalle Audi e dalle Volkswagen dotate di navigatore GPS integrato. Un accordo simile era stato raggiunto dalle due aziende negli Stati Uniti. TomTom Traffic, lo ricordiamo, è il servizio che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale e copre 100 milioni di chilometri di strade. Digital News. Visa lancerà fra due mesi negli Stati Uniti una nuova funzionalità chiamata Visa Mobile Location Confirmation. Allora, con un'app installata su uno smartphone che si presume sia sempre nelle immediate vicinanze del proprietario, a meno che non ce lo rubino, il network di pagamento, quindi il sistema Visa, verifica che la nostra posizione coincida effettivamente con il luogo dove effettuiamo un pagamento. Esiste infatti una protezione antifrode che scatta automaticamente quando l'istituto che gestisce la carta di credito registra acquisti ravvicinati nel tempo ma effettuati a grande distanza tra loro. Quindi se nel giro di poche ore un pagamento viene fatto in Italia e in Cina, scatta un meccanismo che dice: ma forse qui c'è una frode. Se la conferma viene dallo smartphone, visto che lo smartphone lo portiamo sempre con noi, significa che effettivamente ci siamo spostati in poche ore dall'Italia alla Cina, se usiamo questo esempio. Digital News. Parliamo dei dati AudiWeb che sono stati pubblicati questa settimana relativi all'anno 2014. La cosa interessante è che nel corso dell'anno, se si guarda il numero di utenti collegati alla rete internet, la media quotidiana è di 15,6 milioni collegati da device mobile e di 12,7 milioni di utenti collegati dal PC. Quindi se guardiamo i dati annuali, i collegamenti da smartphone superano quelli da postazione fissa, quindi da computer. Prima del nostro prossimo ospite in studio, Gianfranco Giardina, che è qui già a fianco a me per parlare di audio ad alta qualità, vi voglio parlare di un fatto più unico che è raro, che riguarda la tecnologia, anche se è una questione che può sembrare complicata, e riguarda Stefano Quintarelli. Stefano Quintarelli lo abbiamo ospitato a 2024 la settimana scorsa. Potremmo dire, e anzi dico con forza, che abbiamo portato fortuna a Quintarelli. Perché? Allora, Quintarelli è presentato, è un deputato di Scelta Civica. Stefano Quintarelli, io dico in questo periodo della vita, nel senso che Stefano Quintarelli è una persona che ha dato molto alla rete internet in Italia, è stato tra i fondatori dei primi internet service provider in Italia, insomma uno dei fondatori della rete internet in Italia. Allora, Quintarelli ha presentato un emendamento alla riforma costituzionale per estendere il coordinamento nazionale dello Stato non solo ai dati, ma anche a processi, infrastrutture e piattaforme informatiche. Allora, su questo emendamento il governo aveva espresso parere negativo, e visto che Quintarelli è di Scelta Civica, che appoggia il governo, questo parere negativo del governo ha fatto sì che Quintarelli fosse costretto, per coerenza politica e di sostegno al governo, fosse costretto a ritirare questo emendamento. Ma colpo di scena, Antonio Palmieri di Forza Italia, che è un'altra persona che fa parte dell'intergruppo Innovazione, quindi si occupa di tecnologia e come ci capisce, annuncia, vedendo quello che stava succedendo, dice: ma no, questa è una buona cosa. Annuncia che Forza Italia avrebbe fatto proprio l'emendamento, e da lì, se avete la possibilità, andate sui siti internet che si sono occupati, scrivete emendamento Quintarelli e trovate un sacco di cose, andate a vedere il video, perché da lì è una escalation di gruppi parlamentari che appoggiano questo emendamento, e alla fine anche il governo è costretto a fare, insomma costretto, non è che nessuno lo ha costretto, però il governo ha capito di aver fatto una stupidaggine a mettere parere negativo a questo emendamento, e anche il governo ha cambiato idea mettendo parere positivo. La nostra Elisabetta Fiorito, che è la nostra, assieme a Vincenzo Miglietta, nostra giornalista parlamentare, ha incontrato Quintarelli poco dopo il voto a Montecitorio. Allora sentiamo questa intervista e il commento di Stefano Quintarelli. Sì, è una cosa incredibile che mi dicono non succedeva dal 1948, quindi è una cosa decisamente senza precedenti. Ancora più incredibile se consideriamo che era arrivato in aula con parere contrario di commissione, governo e relatore di minoranza, quindi erano tutti in disaccordo all'arrivo, e dopo il dibattito parlamentare è uscito con zero voti contrari, una cosa incredibile. Che cosa riguarda questo emendamento a sua firma? Ma riguarda il coordinamento dell'informatica della pubblica amministrazione. Detto in altri termini, fino ad oggi in Costituzione era previsto che fosse possibile coordinare solo i dati, adesso il coordinamento è esteso anche alle piattaforme, alle architetture e via dicendo. In pratica, mentre prima potevamo metterci d'accordo solo sulla dimensione del pallone e del campo da calcio, senza mettersi d'accordo sulle regole del fuorigioco piuttosto che della rimessa laterale, adesso è possibile mettersi d'accordo anche sul modo in cui i sistemi comunicano tra di loro, e quindi coordinare questo a livello nazionale. Un grandissimo passo avanti, abilita un'automazione che altrimenti prima era lasciata solo alla buona volontà delle persone che lavoravano a questi sistemi. Che cosa cambierà in pratica? Un esempio concreto. È possibile adesso per lo Stato fare in modo che i sistemi parlino tra di loro. Quando noi andiamo in uno sportello e prendiamo un documento che poi portiamo un altro sportello, quello che stiamo facendo è prendere dei dati che stanno in un sistema informativo, metterli su carta e portarli da un'altra parte dove un funzionario prende quegli stessi dati e li trascrive in un altro sistema informativo. Questo perché non c'è interoperabilità, si chiama, tra i due sistemi. Ecco, questa interoperabilità era lasciata alla buona volontà di chi gestisce i sistemi. Oggi con questo emendamento è possibile invece fare delle politiche centrali che assicurino l'interoperabilità dei sistemi su tutto il territorio nazionale. E quindi per il cittadino vuol dire che non deve più andare a prendere un documento da una parte all'altra, ma che lo stesso impiegato statale manderà al suo collega dell'altro ufficio. Ancora di più, che un impiegato potrà accedere ai dati presenti presso banche dati di altri uffici in modo interoperabile. Ma questo non è che accade immediatamente. Mentre prima non c'era una previsione costituzionale che consentisse di fare ciò e quindi ogni legge che fatta in questa direzione doveva essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale e c'erano stati dei casi in cui era stata negata questa possibilità, adesso questa diventa una possibilità. Quindi adesso è possibile per lo Stato, per il Governo, legiferare in modo tale da assicurare che i sistemi parlino tra di loro. Non si rischia di creare un grande fratello? Beh, sicuramente sarebbe un piccolo cugino rispetto a Facebook, Google, eccetera, e comunque no, perché sono tutte informazioni già presenti nelle banche dati dello Stato che sono insomma già lì, quindi si tratta semplicemente di farle dialogare senza usare il cittadino come vettore delle informazioni. Allora, vedremo sicuramente come proseguiranno i lavori della riforma costituzionale. Comunque per il momento bravo e complimenti a Stefano Quintarelli, ma bravo anche ad Antonio Palmieri che ha recuperato questo emendamento che sennò sarebbe andato perso. Adesso è con noi nel nostro studio Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, www.dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ci sono alcune notizie che ci danno la scusa, il motivo per l'occasione per parlare di internet e audio, in generale audio. Poi parleremo naturalmente di musica in streaming e parleremo anche di qualità. Diciamo che queste notizie ci danno effettivamente l'occasione per riparlare finalmente di qualità che sta aumentando nei servizi di streaming audio. Beh, direi di partire proprio dalle ultime notizie. Qualcosa sta succedendo adesso, qualcosa succederà fra pochi giorni, una settimana, due, un mese, non lo so. Sì, allora partiamo magari da Deezer, che è uno dei due principali servizi insieme a Spotify, che ha annunciato la disponibilità, per il momento limitata ai possessori dei sistemi Sonos, quindi sistemi multi-room Sonos, dei propri servizi di streaming in versione Elite, così l'ha chiamata, e la versione Elite prevede uno streaming cioè compresso senza perdita, quindi in formato FLAC, quindi vuol dire non più MP3, quindi non più uno stream compresso. I servizi oggi disponibili offrono al massimo una qualità di 320 kilobit al secondo, che è sicuramente una buona compressione MP3, quindi di buona qualità, ma è certo ben diversa dal file non compresso o compresso senza perdita. Adesso si passa, Deezer apre anche in Italia, sta succedendo in questi giorni, poi in maniera graduale soltanto per i possessori di sistemi Sonos, poi più avanti verrà aperta a tutti, apre allo streaming in qualità CD. Sì, giusto per avere tanto un'idea, per intenderci. Il punto di riferimento che fino ad oggi viene utilizzato per la musica di buona qualità è il CD, il compact disc. Sì, e la differenza soprattutto negli utilizzi residenziali, sì, c'è. Non mi sento di dire che possa essere decisiva per chi ascolta con due auricolari in metropolitana. Probabilmente per quel tipo di utilizzo la qualità dei 320 kilobit al secondo è più che sufficiente. Ma visto che oramai si stanno diffondendo sempre più questi sistemi Wi-Fi domestici collegati ai sistemi di streaming, quindi l'audio torna in casa prepotentemente con i sistemi multiroom digitali e lo fa anche con sistemi di media o di ottima qualità, per esempio, non scordiamoci, per esempio, un sistema Sonos che già è ben suonante di per sé, ma ha anche il componente Hi-Fi collegabile a un impianto terzo esistente. Quindi io posso prendere il più bel impianto Hi-Fi possibile e collegare il mio client, diciamo, Sonos. Ecco, in questo caso fino a ieri facevo lo streaming in MP3, oggi posso fare lo streaming di 30 milioni di canzoni in qualità CD. Questo e è questo interessante. È una grossa rivoluzione. Poi parleremo di qualità in modo più specifico, però volevo chiederti se ci sono altre novità, quindi se l'annuncio di Deezer, che per adesso parte per pochi utenti di fatto, insomma è una partenza per poi gli abbonati annuali, bla bla bla, è un unico servizio che parte con questa qualità o ne stanno arrivando altri? Quindi stiamo parlando di un cambiamento che potremmo definire all'inizio del 2015, insomma, fra qualche anno potremmo dire è cambiata la storia della musica in streaming online, è cambiata la qualità, quindi possiamo parlare di un fenomeno o siamo ancora ad un annuncio? Io penso che possiamo parlare veramente di un fenomeno. Noi questa data, questo inizio 2015, diventerà una pietra miliare della storia dell'alta fedeltà, inevitabilmente, in Italia quantomeno. C'è un servizio, un altro servizio, che nasce con presupposti diversi rispetto a Deezer o Spotify, si chiama Tidal. Tidal. Okay. È un servizio che nasce esclusivamente per l'audio compresso senza perdita, quindi in formato FLAC. Quindi offre soltanto quel tipo di servizio, non offre offerta gratuita come fanno le altre piattaforme, nasce con un costo che è circa il doppio degli altri servizi in questo momento e ha annunciato il prossimo arrivo in Italia. Mi aspetto a giorni, al massimo settimane, l'annuncio della piena operatività di Tidal anche in Italia. E quindi non è un caso isolato, è una tendenza. Io penso anche che anche Spotify non possa che rispondere a queste prese di posizione di Deezer e questi altri servizi. Io credo anche che probabilmente Tidal possa avere dei problemi, perché è chiaramente Deezer che gioca sulla la stessa partita ma con prezzi forse più convenienti. Perché è un bel competitor per gli abbonati. In diciamo, questo momento Deezer sta offrendo per i clienti Sonos l'offerta allo stesso prezzo ma col vincolo annuale, mentre normalmente l'abitudine nei servizi di streaming è quella di fare abbonamenti mensili che possono essere disdetti in qualsiasi momento, quindi c'è anche una grossa volatilità degli abbonati. Se per esempio sono abbonato a Deezer, e siccome più o meno i cataloghi si assomigliano molto, ecco, se quindi sono abbonato a Deezer ma Spotify fa un'offerta speciale per fare acquisizione di nuovi clienti, beh, interrompo l'abbonamento a Deezer e passo a Spotify e viceversa. In questo caso, per non parlare poi di tutti gli altri servizi, perché se non parliamo di Deezer e Spotify ma ce ne sono altri, quindi la lista si potrebbe allungare. Certo. In questo caso la tendenza sembra essere, almeno mi sembra essere, poi magari mi sbaglierò, ma penso che si possa scommettere a regime su una cosa di questo tipo, che il servizio di audio non compresso, fatemi dire così per semplicità, anche se poi è compresso senza perdita, comunque l'audio di alta qualità venga offerto più o meno allo stesso prezzo, almeno nei pacchetti di offerte speciali, contro un vincolo di abbonamento, per esempio annuale, quindi per aumentare la fidelizzazione, un po' come hanno fatto le telco con tutti gli abbonamenti mobile, no? Quindi hanno fatto condizioni economiche particolarmente vantaggiose a patto di avere un vincolo di fedeltà. Ecco, questo sembra essere la tendenza, per questo mi penso e ritengo che sia iniziata veramente una nuova era. Questa qualità che soprattutto, ripeto, negli impianti residenziali si sente, questa differenza di qualità si sente, è evidente, okay. Sarà sicuramente ben accetta, magari non con l'extra spesa, ma col vincolo. Tanto, parliamoci chiaro, chi si abitua a utilizzare un servizio di streaming avendo 30 milioni di canzoni disponibili sull'unghia in qualsiasi momento e anche in qualsiasi location, perché poi funziona anche chiaramente sui sistemi mobili, difficilmente torna indietro. Quindi è un servizio talmente potente, e anche i numeri che FIMI ha diffuso ultimamente dicono appunto che i ritorni anche per le case discografiche da streaming hanno superato quelli da downloading legale, e quindi sicuramente è una fattispecie che sta prendendo piede. L'averlo, ci sono, diciamo, delle critiche da parte di molti audiofili che ci sono sempre quelli, etichettano gli utenti dei servizi streaming adesso come streamisti. Non estremisti, streamisti, ma ovviamente con un'accezione negativa, sì. E invece dovranno o ricredersi o comunque passare anche loro a un servizio di questo tipo. Perché... Ecco, allora parliamo di qualità. Tu hai detto che è evidente una qualità che possiamo paragonare a quella del CD. Diciamo qualcosa di più di questa qualità. Sì, allora è un appunto compresso il file, vengono compressi con questo algoritmo FLAC che è, diciamo, né più né meno come fosse uno zip dei file, quindi viene poi decompresso dall'apparecchio che lo riproduce e torna a essere un file PCM a 44 kHz e 16 bit, quindi né più né meno nella codifica del CD. Okay. Qualcuno si lamenta perché dice, ma come? Già si parla e si fa anche high resolution audio, quindi... Un audio ha una risoluzione più alta, fino a 192 kHz, fino a 24 addirittura e più bit come, quindi meglio del come CD. Dettaglio. Quindi meglio del CD, perché non avere uno streaming in questa qualità? Beh, innanzitutto sarebbe probabilmente complicato averlo su tutto il catalogo di 30 milioni di canzoni, anzi probabilmente impossibile, perché per la stragrande maggioranza di questo catalogo il sorgente che è stato utilizzato anche per caricare e alimentare questi servizi di streaming è proprio il CD. Sì. Quindi non avrebbe senso fare un upscaling di file che nascono nativamente a 16 bit e 44 kHz. Ok, poi ci sarà anche un problema di banda, no? E poi c'è un problema di banda. Questo problema di banda è un problema che si pone anche per i servizi di cui stiamo parlando adesso. Cioè si passa dai 320 kilobit al secondo a qualcosa che assomiglia a 1,4 megabit al secondo. Quindi bisogna vedere innanzitutto se in mobilità la banda è sufficiente. Non è detto che sia sufficiente per fare degli ascolti di qualità. E poi quanta banda si consuma. I piani mobile non sono infiniti, lo sappiamo. Quindi sicuramente le telco saranno molto contenti di questo tipo di servizi, ma è più facile che le soglie di traffico vengano avvicinate più velocemente grazie a questo tipo di servizi, ma comunque configurando l'app si può limitare magari l'alta qualità per l'utilizzo residenziale e mantenere i 320 kilobit per l'utilizzo mobile. Sì. Senti, naturalmente se noi ascoltiamo tutto questa meraviglia con o degli impianti comprati al supermercato oppure con delle cuffie, tipicamente sono le cuffie che ci vengono date in dotazione con lo smartphone o veramente cuffie di bassa qualità da $15, 15 euro, distruggiamo questo grande valore che ci viene fornito o no? Ma allora, diciamo così, finché non miglioriamo la sorgente non ci sarà la spinta a migliorare gli sistemi di riproduzione. Ok, cioè è inutile avere una cuffia meravigliosa se la qualità di base fa schifo. Sì. E lo si capisce, l'abbiamo detto già altre volte, anche da questi microfoni, ma lo si capisce da quanto ci si stanca ad ascoltare la musica. Un file MP3 stanca alla lunga, cioè a un certo punto si sarà portati ad abbassare un po' il volume, a interrompere la riproduzione, a liberarsi, soprattutto se si ascolta in cuffia, a liberarsi dalle cuffie. Questo non accade con un file non compresso, o accade molto meno, perché evidentemente se si tiene un volume molto alto ci si stanca comunque, però accade molto meno. Perché? Perché il cervello non è chiamato a ricostruire una serie di informazioni che in realtà nel file non ci sono più, ma siccome noi siamo abituati a sentirle lì, le rimettiamo inconsciamente, tanto per intenderci. E ho semplificato un po', ma il meccanismo è occhio e croce questo. Quindi l'ascolto fatto di un file MP3, quindi compresso, è un ascolto stancante. Al contrario, un file non compresso è molto, molto meno stancante, quindi la gente si abituerà. Al di là della qualità, anche al comfort di ascolto. Ma aggiungo anche un'altra cosa: ogni momento e ogni situazione, ogni circostanza ha il suo impianto. Ecco, sotto una certa qualità non bisognerebbe mai scendere, quindi anche l'auricolare. Io consiglio sempre le cuffie a padiglione, adesso vanno anche di moda e quindi non c'è più il problema dell'auricolare, perché si ha un ascolto migliore, più stabile, un migliore isolamento rispetto all'esterno. Però anche chi volesse usare l'auricolare, ne esistono di auricolari che si comprano come accessorio, molto buoni che forniscono delle buone prestazioni. Quelle in dotazione con i telefoni spesso sono molto scadenti. Sì. Quindi sì. Noi abbiamo fatto anche dei test comparativi da questo punto di vista. Bastano 20 euro per in più, 20 euro per avere un auricolare di altissima classe rispetto a quello che viene offerto col telefono. Senti, un'ultima domanda riguarda il video, perché su internet, a proposito di musica, buona parte della musica viene consumata tramite servizi video. Anche in quel caso sta aumentando la qualità, ti aspetti che aumenti la qualità? Non lo so. Quello che so per certo è che quello che non tutti capiscono, soprattutto magari qualche giovane virgulto che ascolta la musica su YouTube, tanto per intenderci, è che il traffico che sta facendo è traffico video, non traffico audio. Cioè molti usano oramai ascoltare su YouTube la musica perché è gratis, perché è al volo, perché cerchi, schiacci play, eccetera, eccetera. In realtà stanno facendo il traffico video. Quindi la banda non è quella limitata a un audio che peraltro è di pessima qualità perché è molto compresso, ma ha anche inevitabilmente la banda video che non può essere scartata. Certo. Quindi in termini di traffico dati bisognerebbe ragionarci. Vedere tutta questa gente in mobilità che ascolta la musica su YouTube mi fa pensare che il raggiungimento delle famose soglie di traffico dati sia un pochino più facile così che con un servizio di streaming anche di alta qualità. Bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, sicuramente torneremo a parlare e aspettiamo che questi servizi, oltre a Deezer, che si aggiungano altri servizi, ve lo annunceremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie, a presto. Grazie mille. Adesso abbiamo una parte di 2024 dedicata alla banda larga. Il governo è al lavoro con un piano che presto dovrebbe essere approvato, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni 2024. Allora, tutti sanno, comunque molti sanno, che la cosa migliore sarebbe avere una infrastruttura pubblica, come lo sono le altre reti, gas, acqua, energia elettrica, che garantisca una competizione equa fra tutti gli operatori privati. Allora, tutti sanno anche, o comunque molti sanno, che la tecnologia del futuro è la fibra ottica direttamente a casa dell'utente. Allora, partendo da qui però si devono poi fare i conti con alcune complessità della realtà, della presenza di Telecom, della rete di Telecom Italia, del debito di Telecom Italia, quindi questi sono alcuni degli elementi che complicano il tragitto nella definizione di un nuovo modello per la rete internet in Italia. Allora, oltre al governo, un player molto importante nella definizione di questo modello è la Cassa Depositi e Prestiti, per vari motivi, sia perché è un investitore strategico di lungo periodo e quindi investe in infrastrutture che sono tipicamente ripagate nel medio-lungo periodo, sia perché ha una partecipazione azionaria già da anni, una partecipazione molto importante in Metroweb, che è la società che gestisce la rete in fibra ottica in alcune città italiane. La principale è Milano, con un modello che alcuni definiscono il modello ideale, cioè fibra spenta venduta agli operatori di telecomunicazioni che si fanno poi concorrenza con i servizi. Proprio per questo motivo ho incontrato pochi giorni fa Franco Bassanini, che è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti e, lo scoprirete nell'intervista, è anche molto esperto di tecnologia. L'infrastruttura più importante per il futuro del paese sono le reti di telecomunicazione di nuova generazione. Ormai tutte le ricerche dicono che questi investimenti hanno un moltiplicatore sulla crescita molto elevato, molto superiore a quelle di altre infrastrutture, non solo, ma hanno una dimensione temporale più breve delle altre. Per costruire, l'autostrada E45, che è nei programmi del governo, cioè l'autostrada che collegherà Venezia Mestre con Cesena, Perugia, Orte, porterà il traffico che viene dal nord-est verso Roma e verso Napoli. Intanto costa da sola quasi 10 miliardi. Con 10 miliardi lei finanzia praticamente la rete di nuova generazione in tutta Italia, no? E lì è un'infrastruttura. E poi io penso che prima del 2020 o del 2021 questa infrastruttura non si vedrà. Mentre se si parte adesso secondo il piano del governo, il piano per la banda ultralarga che il governo ha sottoposto a consultazione 2 mesi fa e che dovrebbe andare nella sua versione rivista dopo la consultazione forse già al Consiglio dei Ministri del 20 di febbraio o a quello successivo, se si parte con questo piano del governo, io penso che in 3 o 4 anni saremo alla svolta. Proseguiamo tra pochi minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Naturalmente Franco Bassanini faceva riferimento alla trasformazione in autostrada della E45 che già esiste, che vale appunto una decina di miliardi di euro. E ricordate bene le sue parole, si potrebbe costruire tutta l'infrastruttura italiana in fibra ottica che arriva nelle case di tutti gli italiani. È una questione di priorità del governo. Riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di banda larga, di fibra ottica, ma non solo di fibra ottica, perché c'è un partito fatto da uomini di finanza e tecnici, molte aziende di telecomunicazioni che devono necessariamente rispondere agli azionisti e guardano al breve medio periodo, che cercano in tutti i modi di prolungare la vita del rame. Naturalmente, se invece guardiamo al medio e lungo periodo, che è l'orizzonte al quale dovrebbe guardare uno Stato quando costruisce una nuova infrastruttura, non c'è dubbio che la fibra ottica rappresenta la soluzione ideale. In questa parte è con noi Franco Bassanini, che è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che è un attore importante, sarà un attore molto importante nella definizione sia del modello ma soprattutto nell'investimento che dovrà essere fatto in alcune parti di questa infrastruttura. Poi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi come. Non solo, perché Cassa Depositi e Prestiti è un azionista molto importante di Metroweb. Allora, da qui ripartiamo, perché sicuramente Metroweb dovrebbe, vedremo come, avere un ruolo importante nella costruzione della nuova rete in fibra ottica italiana. Perché abbiamo investito in Metroweb? Perché tendenzialmente noi non possiamo investire in uno o nell'altro delle telco che competono fra di loro. Una società che è una società puramente infrastrutturale, che crea un'infrastruttura utilizzabile da tutti e al servizio di tutti, è l'ideale. Naturalmente il problema qual è? Che questo investimento ha un rendimento sostenibile anche per un investitore di lungo termine come siamo noi, se è in grado di poi essere utilizzato da tutti o almeno da un numero di operatori di telecomunicazioni che consente di avere un ritorno accettabile, voglio dire, no? Qui nasce il problema dell'apertura del capitale di Metroweb, perché ormai sembra che di questo si tratti. F2i sembra orientato a non uscire, ma a promuovere insieme a noi un aumento di capitale che metta Metroweb in condizione di aumentare in maniera significativa i suoi investimenti. Oggi Metroweb, come lei sa, sta completando i verticali a Milano e quindi Milano arriverà, Milano con l'area metropolitana, perché poi c'è anche Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, eccetera, sarà nel giro ancora di qualche mese la prima area metropolitana europea ad avere circa l'80% delle sue unità immobiliari collegate in fiber to the home, quindi anche coi verticali. Stiamo facendo la rete in fiber to the building, a domanda può diventare fiber to the home, sull'80% di Bologna. Una parte della linea è già stato consegnato, direi che tendenzialmente entro l'estate, ma forse anche all'inizio dell'estate, consegneremo il resto. E stiamo cominciando a Torino, dove il progetto è di costruire la rete in fiber to the building nel 70% delle unità immobiliari della città. Questo però è un pezzo d'Italia. Ecco, ci sta dicendo che questo modello, non so se ce lo sta dicendo, questo modello potrebbe essere replicato a livello nazionale, quindi con un'infrastruttura che è neutrale di fatto e che viene utilizzata da tutti gli operatori Quindi con quale modello? Perché il piano banda larga presenta vari modelli, varie possibilità. Chi investe e soprattutto con che forma? Guardi, se io leggo attentamente due documenti, cioè il piano banda ultralarga e anche però le proposte che il governo ha messo sul tavolo del piano Juncker, mi sembra di capire, poi la politica, come dire, varia nel tempo, mi sembra di capire che a questo punto c'è una scelta che personalmente io giudico una scelta giusta e sufficientemente coraggiosa. Cioè la scelta è di pensare che circa il 50% della popolazione del paese sia servita da una rete fiber to the building o to the home. To the home direttamente, come ormai sarà Milano, o to the building, che poi rapidamente si può diventare una rete fiber to the home, soprattutto se interverranno alcuni miglioramenti regolamentari, per esempio dire che in un condominio basta la maggioranza semplice per decidere di cablare coi verticali, no? Quindi mi sembra che questo sia l'orientamento del governo, e questo orientamento perché a mio avviso si giustifica? Si giustifica perché allo stato delle conoscenze, con tutto il rispetto per il G-Fast, per il Vectoring 2, eccetera, eccetera. Sono tecnologie che riprendono il vecchio rame, lo trasformano, lo potenziano di fatto. Riprendono il vecchio rame, diciamo, vanno in una rete mista che arriva con la fibra fino al cabinet, e poi sfruttando il fatto che in una parte d'Italia i cabinet sono abbastanza vicini alle abitazioni, agli utenti finali, utilizzano queste tecnologie per potenziare la rete in rame sostanzialmente, con dei limiti, come si sa, perché, come dire, queste cose funzionano se non sono troppi gli utenti che contemporaneamente si servono di questi meccanismi di potenziamento della capacità della rete in rame e così via. Però non c'è alcun dubbio che in una prospettiva in cui c'è una crescita esponenziale continuamente più rapida della domanda di banda, la fibra è quella che consente di avere una incrementabilità sostanzialmente illimitata, che consente di, col meccanismo della fiber to the home, di mettere assolutamente in condizione di totale equivalence of input, di totale parità di trattamento, diversi operatori che competono fra di loro, diverse telco che competono fra di loro, che ha costi di manutenzione notevolmente più bassi del rame, e quindi dal punto di vista del futuro del paese, quella è, a mio avviso, per le aree del paese in cui l'investimento si giustifica. Ora, l'orientamento è di dire, mi pare di capire in questo ultimo momento, questa ultima fase, noi abbiamo quello che è il cluster A, cioè le grandi città, poi quello che è il cosiddetto cluster B0, insomma abbiamo 500 comuni in Italia, nel quale, con una copertura che non sarà del 100%, perché la casa isolata in periferia eccetera non viene collegata, ma che sarà mediamente del 75-80%, noi li colleghiamo in fiber to the building, o meglio, il governo mette a disposizione una serie di incentivi per chi presenta un progetto e lo realizza, perché se non lo realizza nei tempi previsti perde tutto, per il collegamento fiber to the building. Quindi Metroweb potrebbe essere una di queste società? Metroweb potrebbe candidarsi ad essere una di queste società, e se non ci fossero concorrenti interessati a fare la stessa cosa, potrebbe essere la società che realizza questo e lo mette a disposizione di tutti. Dopodiché, se in Metroweb entrano altri investitori, comprese Telco, benissimo. Se entra Telecom, benissimo. Nella fase nella quale si realizza il piano, nessuno di queste Telco può però avere, come dire, il controllo della società. Anche perché credo che le autorità di regolamentazione, antitrust e Agcom, non lo consentirebbero. Nella fase in cui il piano fosse realizzato, il discorso possono cambiare, nel senso che ci sono molti meccanismi per assicurare che venga assicurata l'equivalence of input, anche intervenendo non sulla proprietà ma sulla governance della società. Ma nella fase in cui il piano va realizzato, l'unica garanzia che lo si realizzi nell'interesse di tutti e del Paese è quello che non ci sia una telco che ha il controllo e che può in qualche modo influire. Mi sembra che il governo sia orientato a mettere sul tavolo delle cose importanti, perché già abbiamo il credito d'imposta, anche se attendiamo ancora, ahimè, il decreto di attuazione. Siamo in ritardo. E credo che questo, io ho intenzione di segnalarlo anche al Presidente del Consiglio, perché questo governo si segnala perché ha preso un ritmo diverso, va fatto in tutto e anche in questa questione strategica. Credito d'imposta. Nel piano bando ultralarga c'è e va rapidamente normato un fondo di garanzia che potrebbe essere importante. Perché? Perché chi realizza la rete in una parte ci metterà una quota di capitale, di equity, ma in un'altra farà leva, quindi prenderà dei finanziamenti e certo che se c'è una garanzia dello Stato questi finanziamenti costeranno meno, non solo, ma si potranno avere finanziamenti BEI, la BEI chiede la garanzia dello Stato e i finanziamenti BEI sono finanziamenti a tassi molto, molto interessanti. Si sta discutendo di un terzo incentivo, cioè di dare un voucher e di dare un voucher al cliente finale. Le famiglie e le imprese avranno sostanzialmente un voucher per l'allacciamento alla rete in fibra. A questo punto è possibile che le tariffe che vengono fatte agli utenti finali scontino un contributo di allacciamento che l'utente finale paga col voucher e quindi non a suo carico, e una tariffa flat molto vicina a quella del rame. E quindi questo incentiverà moltissimo il passaggio dal rame alla fibra. Perché è importante? Perché l'agenda digitale europea, quando dice che il 50% nel 2020, il 50% della popolazione dovrà avere a disposizione una rete che gli consenta 100 megabit, almeno 100 megabit al secondo, non parla di disponibilità potenziale, cioè potrei attaccarmi ad una rete perché passa sotto casa, ma parla di effettiva connessione, cioè sono abbonato, 50% è abbonato a una rete che gli garantisce questa, almeno questa velocità. Allora, questo fa sì che lo strumento del voucher è utile a questo fine e tra l'altro abbiamo già sperimentazioni che dimostrano che l'Unione Europea non lo considera aiuto di Stato perché è un sostegno alla domanda e non all'offerta. Gli incentivi per l'automobile potremmo essere, insomma, paragonarli a quelli. No, come per esempio l'incentivo a un certo punto per il passaggio al digitale terrestre nella televisione, perché esatto, si diede un voucher per l'acquisto del decoder. Esatto. Le faccio una domanda su la struttura societaria. Non sarebbe più semplice fare una società della rete pubblica col supporto della Cassa Depositi e Prestiti, così come del resto è scritto nel programma di Renzi che ha utilizzato per le primarie, che non è mai stato cambiato? C'è scritto esattamente questo: società pubblica della rete per fare una infrastruttura nuova promossa dalla Cassa Depositi e Prestiti. Non sarebbe più semplice? Non sarebbe più semplice per una ragione, che una cosa di questo genere richiederebbe che si riparta da zero, costituire questa società. Questa società dovrebbe naturalmente avere i suoi clienti, dovrebbe raccogliere dei capitali, Cassa Depositi e Prestiti, per quanto... Potrebbe essere Metroweb, quella società, no? Beh, Metroweb non è una società a prevalente partecipazione pubblica, in questo momento il socio di maggioranza è F2I, che è un fondo di private equity privato in cui noi abbiamo una partecipazione di minoranza come CDP, ma non di più. Una scelta di questo genere, per così dire, dovrebbe fare i conti con intanto che cosa succede della rete Telecom, no? Ma soprattutto il mio timore è che quando una società di questo genere fosse costituita in grado di operare, i tempi previsti dallo Sblocca Italia e dal piano banda ultralarga sono passati. Il governo ormai si è impegnato. Entro il 31 maggio chi vuole presenterà i progetti di investimento nei vari cluster e avrà diritto ad avere quegli incentivi. Io non penso che sia possibile pensare che una società pubblico a maggioranza, a partecipazione pubblica sia in grado di fare questo. Vedo francamente molto più facile che questa operazione sia fatta attraverso Metroweb. Meglio sarebbe se attraverso la partecipazione in Metroweb anche delle telco. Dopodiché io so benissimo che ci sono alcuni che sarebbero disposti a partecipare insieme agli altri e altri invece che sarebbero disposti a partecipare ma escludendo gli altri. Questa è una partita che è in corso e su quale, siccome dipende da questi e non da noi, francamente non vorrei esprimermi in questo momento. L'importante adesso è di partire rapidamente. Abbiamo una finestra di opportunità, c'è un piano del governo, il governo ha identificato delle risorse importanti, queste risorse vengono da una riorganizzazione di fondi europei che ci sono, in più c'è la possibilità di utilizzare il piano Juncker. Mettendo insieme queste cose, io penso che tutti i progetti, teoricamente, progetti migliori ce ne sono molti, compreso quello che lei ha indicato. Però in queste cose il meglio è nemico del bene. Se per cominciare una discussione su questi progetti, che certamente non sarebbero semplici anche perché ha implicazioni di ordine politico, culturale, eccetera, si perde la finestra di opportunità che è adesso, non si fa il bene del paese. Cioè io temo che cominci una di quelle discussioni teoriche pubblico, privato, Stato, mercato, questo e quell'altro, e tra un anno ci troviamo ancora qui presi in quella discussione con un articolo di Zingales che ci dice una follia, un altro invece di, che so io, di Mucchetti che dice no, questa è la soluzione giusta. No, invece qui c'è una possibilità concreta. C'è nel governo, c'è a Palazzo Chigi, c'è il sottosegretario Giacomelli che su questa cosa ci hanno messo un forte commitment. Io ho sempre pensato che il commitment del governo sia importante sia perché il governo ci mette degli incentivi importanti, sia perché il governo è in condizione di esercitare una forte moral suasion in tutte le direzioni. Penso che siano committed anche le autorità. Naturalmente le autorità mettono dei paletti che sono del tutto giustificati. Garantire realmente la equivalence of input e quindi la parità della concorrenza, laddove la competizione c'è e non ci può non essere, che non è tanto sulle infrastrutture, perché sulle infrastrutture sappiamo che la competizione in Italia ci potrebbe essere una parte limitata del territorio, con il rischio che nel resto del territorio non si investe e si lascia un'infrastruttura obsoleta e superata. La competizione c'è nella fornitura di servizi di telecomunicazione. Se si riesce a creare una condizione per avere una rete moderna, performante, di nuova generazione, potenzialmente scalabile, no, verso sulla quale già per esempio una delle novità degli ultimi mesi è che sulla rete Metroweb di Milano, di Bologna e tra poco di Torino, Vodafone offre servizi a 300 megabit al secondo. No? Solamente 300 megabit al secondo è una bella sfida competitiva. 300 megabit al secondo, nessuna Vector, G-Fast, eccetera, per il momento arriva. Diceva, ma forse ci arriverà nel 2025. Ho capito, ma nel 2025, come dicono i piani già di alcuni paesi, si stabilirà che lo standard è un gigabit, da un gigabit in su, voglio dire. No, ma il futuro è questo, non ci sono. Dico l'ultima cosa, che è una volgare ripetizione dei due ultimi rapporti Caio per l'Italia, no? Se c'è un terreno della sfida sulle condizioni infrastrutturali della competitività del paese, sul quale noi siamo in ritardo, ma siamo in condizione di recuperare, è questo della rete di telecomunicazioni. Perché i ritardi che noi abbiamo nelle infrastrutture di trasporto, porti, aeroporti e così via, ci vorranno anni a recuperarli e ci vorranno non investimenti per qualche miliardo, ma ma investimenti per diverse decine di miliardi. Questo è il terreno nel quale noi siamo in condizioni, con le forze del paese, con un apporto di incentivi da parte del governo e con il resto dei capitali messo da società private, di metterci nel giro di 3 anni, 4 anni al livello dei paesi più avanzati. Sarebbe una follia rinunciare a questa opportunità. Questa è 2024, la versione podcast del nostro programma. Vi stiamo offrendo tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, prima che mi scriviate una email, faccio una nota a margine sulle verticali nella città di Milano alle quali faceva riferimento Franco Bassanini. Molti ascoltatori potrebbero dire: ma già nei palazzi a Milano esistono le cosiddette verticali, cioè dalla fibra ottica che arriva al palazzo, ai piedi del palazzo, si sale fino agli appartamenti. Allora, va detto, poi non scendiamo nelle motivazioni che portarono a questa scelta, che queste verticali sono di Fastweb, cioè le verticali storiche della rete milanese sono di Fastweb. Allora, la rete Metroweb arrivava fino ai piedi dei palazzi e poi Fastweb faceva tutte le verticali, che era un modo un po' per blindare l'infrastruttura, così tu ti abbonavi solamente a Fastweb. Infatti tutti gli abbonati alla fibra ottica a Milano sono Fastweb. Allora, da qualche tempo Metroweb invece sta estendendo la propria rete, che è una rete neutrale messa a disposizione di tutti gli operatori, la sta estendendo facendo appunto queste tratte verticali fino agli appartamenti. Tant'è che nella città di Milano, dove sono già state fatte queste verticali, ci sono delle offerte di Vodafone, diceva Bassanini che offre in alcuni casi 300 megabits al secondo, e anche di Infostrada, quindi gruppo Wind Infostrada. Quindi, giusto per spiegare, prima che qualcuno scriva e dice: ma le verticali esistono già. Bene, proseguiamo tra poco questa puntata di 2024 che in larga parte abbiamo dedicato a questo tema. Allora, tra poco parleremo di Fastweb, perché Fastweb proprio questa settimana ha fatto un annuncio importante, un annuncio che riguarda il prossimo anno e che riguarda una tecnologia alla quale abbiamo fatto riferimento, che è il Fiber to the Cabinet, quindi la fibra che arriva fino all'armadio stradale e poi si prosegue con il vecchio doppino di rame. È sicuramente un annuncio molto interessante, è un tassello di un dibattito in atto, un dibattito che si sta facendo tra tecnici ma anche a livello governativo. Ne parliamo tra poco. 2024. Questa è l'ultima parte del nostro programma, stiamo parlando e stiamo dedicando molto spazio ai progetti per aumentare la velocità di internet in Italia, perché di questo stiamo parlando. Oramai il problema del digital divide, cioè di dove non esiste proprio un'infrastruttura internet, è molto limitato. Ci sono effettivamente ancora zone dove non c'è internet, ma il problema oggi è che in molte zone internet ha una velocità inadeguata ai tempi di oggi. Dedichiamo molto spazio a questo tema perché penso che sia utile un dibattito, seppur limitato alla nostra trasmissione e a pochi altri media, anche al Sole 24 Ore, ma insomma a pochi altri media. Non è, purtroppo, questo è un tema di cui si dibatte a livello nazionale. Certo, non è affascinante come una partita di calcio, ma sicuramente un tema molto importante, perché poi internet lo utilizziamo in molti tutti i giorni e sarà sempre più così, lo utilizzeremo sempre di più, quindi questo è un tema molto importante. Tra l'altro ci sono anche investimenti importanti, quindi a maggior ragione questo sarebbe un tema di cui dibattere. Comunque, la cosa positiva è che qualcosa si sta muovendo, l'avete sentito anche poco fa dalla voce di Franco Bassanini. Primo, perché le istituzioni pubbliche si sono date degli obiettivi, a partire dall'Unione Europea, che su questo sta spingendo molto, e assieme agli obiettivi sono stati messi in campo anche degli investimenti, quindi capitali che verranno investiti non direttamente dalla mano pubblica, ma, come avete sentito, tramite operatori, un po' come succede in altri settori: il pubblico mette a disposizione le risorse, le società private investono. Ma poi c'è un altro motivo molto importante per cui si sta muovendo qualche cosa, perché esiste la domanda, ed è sempre più vorace questa domanda di banda, sia da parte dei privati ma anche e soprattutto da parte delle aziende, perché non dimentichiamo che dobbiamo costruire questa nuova infrastruttura non tanto per guardare la TV di nuova generazione in casa, ma perché sono le aziende che ne hanno bisogno e ne avranno sempre più bisogno per essere competitive. Allora, in questa grande partita ci sono tante cose che complicano il percorso. Potremmo però, semplificando molto, dire che ci sono due grandi partiti. Allora, quello che dice: qua bisogna fare fibra ottica ovunque, e io sono, diciamo, prendo parte, mi iscrivo a questo partito. E tra l'altro, bisognerebbe dire, bisogna portare fibra ottica ovunque, anche laddove non è conveniente, deve pagare lo Stato, così come si porta il gas, l'acquedotto, l'energia elettrica anche nelle case più sperdute, le fognature, bla bla bla. E quindi bisognerebbe prendersi un impegno su questo, e vedo che purtroppo rimarranno alcune zone del paese dove le infrastrutture continueranno ancora per molti anni a vacillare, e magari su questo anche le regioni potrebbero prendere posizione, ma su questo potremmo tornare. Allora, grande partito della fibra ottica, perché guarda molto in là. Se lo fanno i giapponesi, io dico, beh, pensiamoci bene. Poi c'è anche da dire che in molti stati dove per il momento non si fa questo tipo di investimento ci sono reti per portare la TV via cavo, e quindi nel momento in cui la fibra effettivamente sarà necessaria, non si potrà più fare a meno di questa tecnologia, beh, si sfila il cavo coassiale della TV e si mette in un attimo il cavo in fibra ottica. Quindi questi paesi, sono molti in Europa, sono avvantaggiati. Allora, l'altro partito è quello della, lo chiamiamo fibra fino ad un certo punto, FTTC, Fiber to the Cabinet, cioè si va con la fibra ottica fino all'armadio stradale, e da lì poi si prosegue con i vecchi doppini di rame. Questi investimenti li stanno facendo Telecom Italia, Fastweb, soprattutto Telecom e Fastweb, e anche Vodafone. Li cominceranno a fare anche altri operatori in tutte le zone del paese dove questa tecnologia è conveniente. Allora, sicuramente dal punto di vista dell'operatore di telecomunicazioni questa è una tecnologia molto intelligente, fantastica, perché con una spesa tutto sommato, un investimento tutto sommato contenuto, si può portare all'utente finale, azienda o cittadino, insomma famiglia, velocità molto interessante. Oggi parliamo di 30, 50, 70 megabits, parlo di medie, al secondo. Nei prossimi anni si potranno raggiungere velocità superiori. Quindi questi iscritti al partito della fibra fino ad un certo punto, FTTC, fibra fino all'armadio stradale, dicono: ma se possiamo raggiungere queste velocità e fra qualche anno ancora più veloci, ma perché dobbiamo investire tanti soldi per portare la fibra fino all'appartamento? Perché se uno guarda molto in là nel tempo, la motivazione principale è fare un'infrastruttura che guarda molto in là nel tempo. Però è anche vero che questi iscritti a questo partito dicono: ma però in questo modo spendiamo molto poco, con la fibra si spende un po' di più, perché non si spende tanto. Se torniamo al paragone che ha fatto Franco Bassanini, per trasformare in autostrada una strada che già oggi c'è, spendiamo 10 miliardi per un'opera che fondamentalmente è inutile, perché non è che cambia le sorti dell'Italia, la E45 trasformata in autostrada, forse è il caso di investire in fibra ottica. Quindi parliamo di investimenti tutto sommato molto molto contenuti, di pochi miliardi, e mentre, come diceva Bassanini, per fare altre cose ci vogliono decine di miliardi. Quindi bisognerebbe farsi coraggio, il governo dovrebbe essere un po' più coraggioso, e certo questo governo lo è sicuramente più degli altri nel passato, ma insomma potrebbe fare di più. Insomma, detto tutto questo, è comunque interessante lo sviluppo tecnologico che c'è nella tecnologia Fiber to the Cabinet. Allora, questa settimana Fastweb ha rilanciato il proprio piano di diffusione della banda larga e ha annunciato che dal prossimo anno la velocità dei propri collegamenti in FTTC con questa tecnologia arriverà almeno a 100 megabit, ma molto di più. Sentite i dettagli spiegati da Mario Mella, che è il CTO, il responsabile delle tecnologie, molto bravo, di Fastweb. Oggi Fastweb sta realizzando la propria infrastruttura ultra broadband utilizzando tecnologia VDSL al cabinet. Questa permette di fornire ai clienti una media di 75 megabit al secondo. Non ci vogliamo fermare qua, anche perché è un settore, è una tecnologia in fortissimo fermento. Ci sono evoluzioni tecnologiche ogni trimestre. Noi in particolare ne abbiamo individuate tre estremamente interessanti che abbiamo voluto testare direttamente in campo e su cui basare la nostra strategia di potenziamento dell'infrastruttura corrente. La prima tecnologia si chiama VDSL ed è un VDSL vectoring, vettorizzato, ed è una tecnologia che sostanzialmente consente solo grazie a leggere modifiche software agli apparati esistenti di portare la velocità media da 75 mega a oltre 100 mega a tutti i clienti. Quindi già questo è un risultato secondo me straordinario, ma non ci accontentiamo, nel senso che abbiamo sperimentato anche altre due tecnologie altrettanto interessanti. Una si chiama G-Fast, che è stata recentemente standardizzata, è stata standardizzata a livello internazionale a dicembre 2014, quindi è molto, molto recente, e che consente di ottenere su distanze abbastanza corte, parliamo di 150-200 metri dal cabinet, velocità che vanno da 300 fino a 500 megabit e con un upstream potentissimo fino a 200 megabit, quindi vuol dire che 500 più 200, la velocità aggregata disponibile è quasi 700 megabit. In più a queste due tecnologie ne abbiamo sperimentato una terza che è di recentissimo sviluppo e quindi richiederà il 2015 per essere standardizzata, che si chiama VDSL Enhanced e che consente di fornire fino a 200 megabit al secondo a quasi l'80% della popolazione italiana. Questo perché? Perché fortunatamente la popolazione italiana ha una rete in rame che dista veramente poco dall'armadio dove questo apparato viene installato. Quindi noi quello che pensiamo è nel 2015 consolidiamo le soluzioni tecnologiche e vogliamo essere pronti che dall'inizio del 2016 le mettiamo in campo per potenziare tutta la nostra customer base. Allora, un elemento importante che va ricordato, lei lo ha citato e ricordato, è la distanza del cabinet, cioè l'armadio di strada che noi vediamo sui marciapiedi lungo le strade italiane, al quale voi portate la fibra ottica, lo stanno facendo altri operatori, ad esempio Telecom Italia, e poi da lì si continua con il ramo. Allora, più vicino questo armadio è alla casa, migliori sono le prestazioni della tecnologia finale, quindi ci sono alcuni che sono un po' più fortunati degli altri. È assolutamente corretto. Le tecnologie che si usano dal cabinet funzionano tanto meglio quanto più è corto il collegamento. In Italia però siamo molto fortunati. La distanza media di una casa da quell'armadio è di 250 metri. Soltanto per dire, la distanza media in Francia è di 700 metri. Quindi tutte queste performance, queste tecnologie che in Italia saranno possibili, in altri paesi ci sono proprio delle limitazioni infrastrutturali che non lo permettono. Quindi quello che noi diciamo è che, vista come è realizzata la rete in rame in Italia e visti anche quelli che hanno i collegamenti più lunghi, questo uso di tecnologia sicuramente garantirà il 100 megabit a tutti e poi dopo ci sarà una serie molto rilevante di clienti che potranno avere velocità da 200 megabit a salire fino a 500. Fatto 100 il numero di armadi stradali che esistono in Italia, e saranno migliaia, sono quanti 150.000. Sono 150.000, ecco, a questi 150.000 portate la fibra a tutti? No. No, in questo momento noi abbiamo un piano di portare la fibra ai cabinet che coprono il 30% della popolazione italiana. Ovvio che siamo pronti a considerare piani di ulteriore sviluppo qualora ci siano anche delle condizioni di non so, anche di finanziamento pubblico, saremo comunque pronti a valutare la possibilità di estendere la copertura. Tutti gli altri vanno con la DSL. Chi rimane in centrale va con la DSL. Con la DSL più di 20 megabit non ci si riesce ad andare. Ci sono dei piani, perché voi siete famosi e noti anche per la fibra direttamente nelle case, utilizzando MetroWeb come rete primaria, comunque insomma in città come Milano, ma non solo a Milano, insomma altre città, portate la fibra direttamente nelle case. Ci sono piani di sviluppo anche per questa tecnologia? No, riteniamo di no per due motivi. Allora, il Fiber to the Home aveva molto senso 15 anni fa, perché era veramente l'unica soluzione tecnologica per fornire 100 megabit a casa. Si può applicare soltanto in situazioni molto particolari, cioè realtà urbane a elevatissima densità abitativa. È una tecnologia molto costosa e quello che è fondamentalmente cambiato in questi 15 anni è che noi, conoscendo così bene l'FTTH, viste le potenzialità delle altre tecnologie che in questi 15 anni si sono sviluppati, non abbiamo dubbi a ritenere che la tecnologia FTTC sia quella che serve al paese per dare l'ultra broadband a tutti. Nei prossimi quanti anni? Allora, una messa in campo di questa tecnologia è un processo molto rapido, perché richiede minimi interventi di scavo, minimi interventi di posa di fibra ottica. Quindi un piano nazionale con questa tecnologia, se deciso, operativamente può essere realizzato sicuramente entro il 2020, ma nazionale, con copertura di tutta Italia. Quindi oltre quel 30% di popolazione a cui voi facevate riferimento. Operativamente non serve più di qualche anno per completare un piano nazionale di copertura, a differenza del Fiber to the Home, che oltre agli investimenti spaventosamente più alti, richiede almeno tra i 15 e 20 anni partendo oggi. A proposito di Fiber to the Home, pensando ad un'infrastruttura futura di medio-lungo periodo, potrebbe l'FTTC, quindi la fibra fino al cabinet, essere diciamo un primo tassello per poi cablare tutte le case? Parliamo insomma di un medio periodo, lungo periodo. Ma quello che noi oggi vediamo è che già oggi, con le performance che sono disponibili, questo tipo di tecnologia è in grado di andare a coprire le necessità di medio-lungo periodo. Prima di dire cos'altro verrà dopo, è curioso notare che tipo di evoluzione tecnologica continua ad avvenire su questo tipo di infrastruttura, che ci potrà far dire che se tra 10 anni al cliente residenziale serve più di un giga, staremo a vedere, ma è molto probabile che ci sarà una soluzione un giga anche sviluppate su questa tecnologia. Le faccio una domanda su, perdoni il gioco di parole, sulla domanda degli utenti. Voi oggi dite, già oggi sul mercato ci sono velocità per effettivamente i più fortunati in alcune città, in alcune zone, che possono appunto andare un po' più veloci rispetto, anzi molto più veloci rispetto alla DSL, e anche sulla DSL sappiamo insomma che ci sono problemi e più o meno fortunati. Però la domanda c'è, cioè i clienti poi si abbonano a questi 50, 70, 100 megabit? La domanda c'è, l'interesse sta crescendo in maniera smodata, soprattutto anche trainati da quello che sta avvenendo nel mondo internet, che sempre di più i clienti sfruttano applicazioni in cloud, sempre di più condividono con la big internet le proprie informazioni, i propri contenuti multimediali, hanno sempre più bisogno di avere in casa connessioni di un numero significativo di dispositivi che accedono contemporaneamente a servizi diversi. Quindi l'esigenza di banda ultra larga sta crescendo in maniera molto interessante e molto significativa. Come si dice in questi casi, il dibattito è aperto, perché anche in questo settore, non solo nel calcio, ci sono i tifosi. Prima parlavo di partiti, ma ci sono effettivamente anche i tifosi che si scaldano nelle discussioni di tecnologia, e quelli che dicono ci vuole la fibra a tutti i costi, e quelli che invece dicono no, si possono fare le stesse cose, quasi le stesse cose, con Fiber to the Cabinet. Parlando con molti tecnici indipendenti, anche se trovare uno che è proprio indipendente, però diciamo quelli che hanno meno interessi collegati agli operatori, diciamo che c'è una tendenza a propendere per la fibra ottica. Tutti gli operatori di telecomunicazioni invece sono molto sensibili e molto attratti dalla Fiber to the Cabinet, perché, come dicevo poco fa, con poco investimento si ottengono delle prestazioni molto interessanti, e se effettivamente queste tecnologie che aumentano ulteriormente la capacità del rame in questi ultimi metri, 200-300 metri, sicuramente questo è molto molto interessante. Va detto che l'annuncio fatto da Fastweb è per il momento un annuncio, quindi vedremo poi il prossimo anno all'atto pratico poi come funzioneranno queste tecnologie, anche se è stata fatta una sperimentazione sul campo. Però un conto è fare una sperimentazione in un quartiere, un conto è fare una sperimentazione in tanti comuni, in tante città, su tanti cabinet. Va anche detto che attualmente c'è un tavolo attivo presso l'autority delle comunicazioni, perché ci sono dei problemi per l'utilizzo di questa tecnologia, diciamo problemi di competizione, perché oggi fino a 4 operatori pare non ci siano grossi problemi a coesistere nella stessa postazione, ma invece se aumentiamo gli operatori su una stessa postazione ci sono dei problemi di interferenza che causano anche un degrado delle prestazioni di questa tecnologia. Quindi adesso non scendiamo in particolari troppo complicati, però i problemi ci sono, e sicuramente nel caso della fibra ottica questi problemi non ci sarebbero proprio, quindi non ci sarebbe nemmeno un tavolo e i tecnici non dovrebbero perdere tanto tempo per cercare di risolvere questi problemi. Poi c'è tutto anche un tema di messaggi non scritti al governo, perché non è un caso che questi annunci vengano fatti in queste settimane in cui il governo deve decidere per poi approvare il piano a banda larga. E poi c'è anche un grosso business degli operatori che forniscono infrastruttura, cioè parlo di aziende che producono le macchine per erogare questi servizi, e che stanno sperimentando queste tecnologie, stanno sviluppando queste tecnologie, e naturalmente chi ha una tecnologia migliore dell'altro dice: guardate che si possono ottenere prestazioni molto interessanti sul rame, perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ma è giusto che sia così. E anzi, sicuramente dal punto di vista dell'operatore di telecomunicazioni e dal punto di vista dell'azienda che vende questo tipo di tecnologia, questa soluzione è eccezionale, non c'è alcun dubbio. Bene, noi concludiamo questa puntata di 2024, molto lunga, molto approfondita sul tema banda larga. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che avete dedicato la vostra attenzione fino a questo punto. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete partecipare al dibattito su Facebook, nella nostra pagina Facebook di 2024. E potete utilizzare anche Twitter, oppure scriverci una bella email per raccontarci quello che pensate di questa puntata e anche delle altre puntate. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.